Oh Mila, ma sei sempre il solito bischero. Se ci fosse il concorso per il più bischero, sei così bischero che tu riusciresti ad arrivare al secondo. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui, cari ascoltatori, guarda che bello l'alpino davanti a me, con la sua maschera nera con una striscia bianca, il che fa bianco-nero. Ah, no, non vedo bene attraverso il vetro e la maschera degli alpini. Allora, se è la maschera degli alpini, ritiro subito le accuse di indossare una maschera bianco-nera. Bene, cari ascoltatori, siamo qui, 800 24 00 24, questo è il numero per intercettarci. Se volete mandare WhatsApp 349-238-6666, vedo anche il buon Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi sono nell'aereo, ma ci sono e siamo tutti qui, riuniti al Braccobaldo Show, 9 e 10 minuti, siamo in diretta con voi fino alle 11 con tanti temi e tanti ospiti. Parleremo di migrazione, di migranti subito, perché avete sentito, la situazione sicuramente non è di quelle facili e quindi, non essendo facile, non possono esserci soluzioni facili. Torneremo anche sul tema dipendenti pubblici e costo della vita, che poi non ho capito perché il sindaco Sala si sia limitato ai dipendenti pubblici, cioè, diciamo, italiani e costo della vita, e quindi stipendi e salari e costo della vita. Avremo il sindaco di Reggio Calabria, evocato in quell'esempio dal sindaco di Milano. E poi avremo tanti altri ospiti. Vi segnalo, avremo anche Beatrice Ion, che è atleta della nazionale di basket paralimpica in basket in carrozzina, originaria della Romania, è stata aggredita, insultata, lei picchiato il padre, una vicenda davvero brutta, e allora vorremmo conoscere un po' di più il suo mondo. Questo alle 10, ci sarà anche Vestaglione Manera in arrivo, ma vestito, vai! Enthusiasm about the future. E ci siete voi, ovviamente, cari ascoltatori, i numeri li sapete, li ho già detti e potete intervenire con noi. In tutto questo, allora, il tema immigrazione è certamente un tema molto molto caldo. Ripeto, come avete sentito anche poco fa Valentina Furlanetto in giornale radio dire che il ministro Lamorgese, il ministro dell'interno, è sicuramente preoccupata, si stanno cercando delle soluzioni perché sono arrivati e continuano ad arrivare migranti, arrivano via mare, arrivano in aereo. Ecco, io vi segnalo per esempio la storia di Hashim, che viene raccontata oggi dal Fatto Quotidiano. Viene dal Bangladesh Hashim, uno di quelli che vengono dal Bangladesh e che sono in qualche modo bloccati, intercettati. Hashim dice: sì, sono partito e non lo nascondo, sono tornato in Italia perché sapevo che se mi fossi ammalato non mi avrebbero lasciato morire, perché ringrazio l'Italia che mi ha accolto come lavoratore e come essere umano. Cioè, racconta Vincenzo Bisbiglia sul Fatto Quotidiano, molti bengalesi fanno una sorta di esodo di cura. Sanno che se si ammalano in patria non vengono curati, e invece qui in Italia sì. Allora, voi, se foste Hashim, anche voi fareste la stessa cosa? Cioè, se uno sa che in Bangladesh rischia di morire e invece c'è una nazione dove c'è un legame, ci sono dei parenti, ci sono dei rapporti di lavoro, e vai e vieni curato, anche voi, tutti noi faremmo così. E come tutti noi, trovando la possibilità di andare a vivere in un posto migliore, emigreremmo. Cercheremmo di andare in un paese migliore. Questo per dire che la soluzione è complicata, e a me le soluzioni semplici puzzano sempre di pressapochismo di fronte a problemi complicati. Certo, una considerazione si può fare, da qui voglio partire con il mio primo ospite. Cioè, se c'è stato un lockdown per tutti noi italiani, perché non si può ipotizzare l'idea di una chiusura totale, totale, per via dell'emergenza anche dell'immigrazione? Certo, però, che quando si parla per esempio di navi vuol dire evocare quei blocchi navali che sanno tanto di politico, di polemiche. Non so, per esempio, vogliamo sentire Iole Santelli, che è presidente della regione Calabria, che dice: non è una questione tanto di immigrazione, è una questione proprio di situazione sanitaria. Qui guardi, non si tratta più di una questione di immigrazione. Se scendiamo nella demagogia di parlare di una questione di immigrazione, sbagliamo. Qui si tratta di una questione di salute. Dobbiamo applicare esattamente le stesse norme. Applicare le stesse norme che sono state applicate agli italiani. Però in tema di immigrazione, di spostamenti, non è facile. L'ammiraglio in congedo Fabio Caffio, che saluto, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei, buongiorno. Buongiorno. Allora, soluzione semplici? No. Si è parlato di tutto, requisire caserme, navi quarantena. Intanto il blocco navale, ammiraglio, è un'ipotesi strampalata per via dell'emergenza, non per ostracismi politici. No, guardi, la parola blocco navale viene usata impropriamente. Qui si tratta di chiudere le frontiere marittime. Allora, noi abbiamo già chiuso le frontiere aeree, quindi voli da paesi considerati a rischio non sono più ammessi. Quindi cittadini del Bangladesh, del Pakistan o di paesi del Sud America non possono arrivare via aerea in Italia. In maniera diretta, mare, poi bisogna capire se arrivano per via traverse. Esatto. Allora, una via traversa è invece la via marittima. Perché? Perché le limitazioni che ci sono alla frontiera aerea non possono esserci alla frontiera marittima, a meno che non si adottino dei provvedimenti di chiusura. E qui andiamo ai porti chiusi. Quindi lasciamo da parte il blocco. Blocco è un'altra cosa. Blocca vuol dire interdire le imbarcazioni che stanno arrivando via mare e rimandarle indietro. Questo ha degli aspetti legali complicati, e in certa misura quasi completamente illegale, diciamo. Altra cosa è invece se arrivino spontaneamente o con navi ONG, sì, delle persone, dei migranti, che cercano di superare la frontiera marittima delle acque territoriali e quindi entrare in un porto italiano. Allora, lo Stato costiero ha ancora il diritto di chiudere le sue frontiere marittime, nel senso di non far entrare persone, come anche lo Stato costiero ha il diritto di adottare misure sanitarie, cioè la sovranità degli Stati è ancora intatta per quanto riguarda l'ingresso nel proprio territorio e la tutela delle proprie esigenze sanitarie. Tra l'altro l'Unione Europea non ha competenza in materia di soccorso in mare, né ha competenza in materia sanitaria. Detto questo, bisogna considerare che le frontiere marittime sono una cosa regolata da varie norme. Sì. C'è la Convenzione del diritto del mare, che prevede la libertà di navigazione, poi ci sono altre fonti giuridiche riguardanti la tutela dei rifugiati e poi ci sono dei principi stabiliti per esempio dal Consiglio d'Europa per quanto riguarda la valutazione della protezione internazionale di paesi che fuggono, di persone che fuggono dai paesi a rischio. Allora, chi arriva da mare paradossalmente ha delle tutele maggiori di chi supera la frontiera terrestre, cerca di superare la frontiera terrestre oppure arriva via aerea. Perché ha delle tutele maggiori? Perché c'è il principio dell'obbligo del salvataggio della vita umana in mare, quindi chi arriva via mare e va bene, e quindi e noi li salviamo, ma poi cosa dobbiamo fare? Si può ipotizzare una quarantena, si può ipotizzare metterli in strutture militari. Mi dispiace, non la sento bene. No, dico, li dobbiamo mettere poi in strutture militari, in strutture per fare la quarantena. Esatto. Allora, arrivano via mare, devono essere salvati. Poi la nostra Corte di Cassazione, con il caso del Rackete, si ricorda, a febbraio. Ha stabilito che all'obbligo di salvataggio deve accompagnarsi quello dell'ingresso a concessione del place of safety, del porto sicuro. In questo modo noi per primi, diciamo, nel mondo o sicuramente in Europa, abbiamo legato il salvataggio della vita umana in mare alla concessione dell'ingresso nel porto. A che fine? Ai fini di applicare i principi previsti dalla Convenzione sulla sicurezza, la SOLAS, sulla tutela dei diritti delle persone persone salvate in mare e sull'assicurare loro un trattamento umano fondamentale. E poi nel valutare la loro condizione. Però, ammiraglio, mi scusi, ci sono poi le persone che arrivano, come ha detto il ministro Lamorgese, autonomamente, cioè senza, certo, senza le ONG. Esatto, navi, esatto. ONG, quelli che sbarcano. Quelli che arrivano spontaneamente. Esatto. Che si fa? Gestire questo tipo di persone è veramente complicato. È e qui entriamo in quello che dice il governatore della Calabria sul fatto che bisogna tutelare la salute dei cittadini e quindi bisogna evitare che questi ingressi indiscriminati. Tutto legittimo, per carità, anche perché la pandemia è ancora un'emergenza sanitaria mondiale. Noi, il nostro governo fino a dicembre ha mantenuto un regime di eccezione dei diritti fondamentali, sia pure nel rispetto dello Stato di diritto, e quindi è giusto che queste persone che arrivano indiscriminatamente non vengano lasciate liberamente. Il circolare. Problema è questo, che si evince almeno dai racconti dei giornali che molti di loro hanno l'intenzione proprio di non farsi individuare, primo perché arrivano così e secondo proprio perché hanno il rischio di essere se no intercettati, malati e quindi messi magari in quarantena. È complicato. Sicuramente umano questo, però il nostro diritto è quello di imporre l'applicazione degli stessi principi che noi cittadini, sì. E quindi diciamo che le misure di controllo sanitario sono più che legittime e quindi tra l'altro potrebbero essere anche imposte, una sorta che lei sa che è in discussione un regime, una specie di trattamento sanitario obbligatorio, no? Sì, sì. Quindi sì, per far questo il governo ha immaginato di trasferire le persone in centri militari, l'ospedale del Celio a Roma, oppure di dislocare qualche nave lungo le coste. Io devo ricordare sì? che il 7 aprile era stato già previsto una situazione del genere, è stato emanato un decreto, non so se ricorda, che vietava l'ingresso delle navi trasportanti migranti salvati e prevedeva che fossero messi in quarantena su una nave. Poi questo regime ce ne siamo dimenticati. Ci siamo dimenticati. E adesso forse è bene ripristinarlo, ma non lo dico io, lo dice anche lo stesso governo. Una soluzione va trovata, si trova secondo Repubblica c'è una sorta di caccia a caserme, alberghi per isolare i migranti positivi con presidi anche dell'esercito. Si cerca anche la questione delle navi quarantena dopo che è scaduto il contratto con la Moby Zaza e quindi c'è stata una nuova gara d'urgenza per trovare spazi alternativi per la quarantena. Certo, la situazione non è facile. Io nel ringraziare l'ammiraglio Fabio Caffio ricordo anche, come scrive oggi Repubblica pagina 2, come ha detto anche il presidente della Regione Veneto Zaia, che tra poco sentiremo in una dichiarazione, c'è il nuovo allarme dei focolai nei Balcani. La nuova paura dell'Italia pare questa: Serbia, Croazia, paesi dove la situazione pare non in controllo. La Romania, 32.000 positivi totali, ma una curva di contagio, scrive Repubblica, che nell'ultimo periodo ha toccato picchi di quasi 700 nuovi positivi al giorno. E allora su questo Zaia lancia l'allarme. Il virus, definiamolo migratorio, cioè non autoctono, è un virus più aggressivo e che ha delle mutazioni, ovviamente, essendo cresciuto in un cluster straniero, ha la sua storia. Adesso non so se sia più aggressivo in quanto straniero, però non vorrei che poi fosse strumentalizzata anche questo tipo di dichiarazione. Il virus straniero è più aggressivo, non lo so. Comunque il tema c'è. Però adesso, al di là di immigrazione, al di là di vicenda complicata, c'è invece un'altra vicenda che da tre giorni tiene un po' banco. È un po' sparita, è sotto traccia sui giornali. Però invece noto che ai nostri ascoltatori il tema appassiona. Il tema lo ha lanciato il sindaco di Milano Sala, quando in una dichiarazione ha detto che, insomma, pensare che il costo della vita sia uguale tra Reggio Calabria, esempio, e Milano, per cui i dipendenti pubblici debbano essere pagati allo stesso modo, è un qualcosa che non va bene. Vogliamo risentirlo, Beppe Sala? La cosa che non va è invece quanto sono pagati i giovani a Milano. Alla fine è chiaro che se il dipendente pubblico a parità di ruolo guadagna gli stessi soldi a Milano o, facendo l'esempio di Melania, a Reggio Calabria, è intrinsecamente sbagliato, nel senso che il costo della vita è diverso. Intrinsecamente sbagliato, caro sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Buongiorno. Buongiorno, poi dovremmo capire se è estrinsecamente giusto. Perché questo sì, però intrinsecamente è sbagliato. Che ci sia un costo della vita diverso, forse su questo sarà d'accordo un po' col sindaco. Sì, non c'è dubbio, però non possiamo soltanto fare l'esempio della classica tazzina di caffè che costa di più a Milano e costa meno a Reggio Calabria. No, poi c'è l'affitto delle case. L'affitto e c'è tutto, però dovremmo considerarlo all'interno di un ragionamento nazionale all'interno del sistema paese, che peraltro era quello che diceva fino all'anno scorso il sindaco Sala quando si parlava di autonomia differenziata. Dobbiamo tenere conto delle condizioni di povertà di un territorio, dobbiamo tenere conto delle condizioni di collegamento che un territorio ha con il resto del paese. Oggi un cittadino, un lavoratore di Reggio Calabria, per raggiungere Milano in aereo, bene che gli vada, deve spendere 200 euro. In treno a orari impensabili, e allora tutte queste cose vanno tenute in giusta considerazione. Più che gabbie salariali, qui sembra si sia tornati a delle gabbie di matti, perché sinceramente ci saremmo risparmiati questa dichiarazione e questa considerazione, soprattutto in questo momento. Ma che cosa la spaventa di questo? Perché lei infatti è stato duro, ha detto forse l'AFA di Milano, forse il fatto che l'Inter sia stata raggiunta dal Verona, era successo poco a 4 minuti dalla fine. Forse e questo dà gioia a tutti. Però, forse se gliel'avessero chiesto ora, all'indomani della vittoria della vittoria col Torino, probabilmente non l'avrebbe ma lei detto, dice no. Cioè proprio secondo lei è un po' fuori dal segno, ma è totalmente fuori tempo, fuori anche contesto storico, insomma delle gabbie salariali si parlava diversi anni fa. Allora, se il problema è la produttività dei dirigenti, dei funzionari e della burocrazia, ragioniamo su come far funzionare meglio la macchina amministrativa, non sul premiare di più il funzionario di Milano rispetto a quello di Reggio Calabria. Proprio l'anno scorso il sindaco Sala venne a Reggio Calabria per visitare lo stabilimento Itachi, dove si producono i treni delle metropolitane che vanno in tutto il mondo, da Lima a Copenaghen, fino anche alla rete nuova di Milano, soprattutto quella dell'Expo, e in quell'occasione disse, insomma, che questo stabilimento va valorizzato, che questi lavoratori vanno valorizzati. Cosa è cambiato in un anno, francamente non si sa. Vabbè, ecco. Ma ha fatto l'esempio di Reggio Calabria, magari non credo che ce l'avesse con Reggio Calabria. No, sono convinto anch'io di questo, però insomma Reggio Calabria è intesa come diciamo città del Mezzogiorno, quindi sì. È una considerazione rivolta a tutte le città del Mezzogiorno. Avesse detto Napoli piuttosto che Bari, piuttosto che Catania o Palermo, sarebbe stata la stessa cosa. Se noi in questa fase post-Covid, dove in qualche modo i problemi anche sotto il profilo sanitario ed economico si sono affrontati in maniera unitaria, riscoprendo anche in qualche modo un sentimento di unità e di identità nazionale. Ecco, se all'indomani di questo torniamo a fare ragionamenti che dividono il nord dal sud, che dividono il mezzogiorno dal settentrione, allora probabilmente della lezione del Covid abbiamo capito poco o nulla. Senta sindaco, devo dire che la dizione gabbie salariali poi Sala non l'ha citata, però è chiaro che il discorso porta a quello. Sì, effettivamente capire come mai in un pieno di luglio sia partito questo tema, che è un tema vecchio o da rilanciare, non c'è una spiegazione razionale, cioè non c'è un dibattito in questo momento all'interno della nazione riguardo a questo tema. Non ho neanche capito come mai ci si riferisca solo ai dipendenti pubblici e non a tutti i lavoratori a questo punto, nel senso che il costo della vita vale per tutti. Facevo l'esempio dei nostri lavoratori, dei nostri operai dell'Itachi, per far capire, insomma, che il dipendente pubblico o comunque privato è sempre un lavoratore, quindi il costo della vita è lo stesso e il medesimo, a prescindere che si tratti di un dipendente pubblico. Una lettura può essere questa, sindaco, che è come ci scrive un ascoltatore, forse non è che Sala voglia diminuire gli stipendi di quelli del sud, ma magari chiedere un aumento a quelli del nord. Cioè non è come dire, il voler dire debbano guadagnare di meno. Esista un contratto che si chiama CCNL, dove NL stanno per nazionale e la C sta per collettivo. Sì. E allora, se esiste un contratto collettivo nazionale di base, poi è chiaro che all'interno delle, diciamo, delle contrattazioni a livello locale, a livello regionale, se ci sono dei sistemi per favorire la produttività, si fanno, ma questo rientra nell'autonomia degli enti locali, rientra nell'autonomia delle pubbliche amministrazioni, ma da qui a dire che devono guadagnare in maniera diversa perché il costo della vita è differente, mi pare che ce ne passi. Sì. Ecco perché dico probabilmente voleva dire altro, e allora che sarebbe utile, magari voleva dire che dovrebbe essere tutti, magari che dicesse qualcosa, diciamo, per correggere il tiro, magari auspicava una sorta di tavolo per favorire dei piedi produttivi decentrati laddove, ma guardate, a questo punto potremmo reintrodurre un altro tema, perché se il costo della vita è diverso, anche le situazioni dei comuni sono diverse. Sì. La sentenza della Corte Costituzionale di qualche settimana fa dice esattamente questo: ai comuni che sono in predissesto, in dissesto, in piano di riequilibrio, e la gran parte si trovano al centro-sud, non dovete dare piani di riequilibrio trentennali, ventennali, perché questo incide, diciamo, sulla violazione del patto fra generazioni. Dovete dare i soldini, dovete dare contributi a fondo perduto per consentire a queste pubbliche amministrazioni di ripartire da zero, di erogare servizi che abbiano una qualità e una dignità pari a quelle delle altre città del centro nord, e quindi consentire a questi enti locali di ripartire. Forse dovremmo mettere questo tema al centro della discussione del dibattito nazionale. Vabbè, insomma, lei ha anche detto che attende ancora le scuse. Forse le scuse è troppo, nel senso che non è che ce l'avesse, no, parlo anche come sindaco del Mezzogiorno, parlo come sindaco del Sud, parlo come delegato ANCI alla coesione, quindi al Mezzogiorno. Insomma, le parole che lui ha fatto a titolo esemplificativo nei confronti di Reggio Calabria valgono per qualsiasi altra città del Mezzogiorno. Va bene. Sindaco, io la ringrazio, grazie per essere stato con noi. Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falco Matà. Ricordiamo, tra l'altro, il centrosinistra come centrosinistra Sala, quindi insomma, in questo caso non è che si stia da parti diverse. Comunque il tema e il dibattito c'è, se volete. Intanto, cari ascoltatori, andiamo un attimo in pubblicità. Vedo che si aggira Vestagliona Manera, e dunque anche oggi l'abbiamo sfangata, sarà qui, l'abbiamo sfangata, vediamo. Entra con la sua mascherina, giacchetta sotto braccio, prego entra, facciamo questa entrata in diretta. C'ha anche un computer, ha una borsa tracolla, ha i soliti occhiali, il fare mesto, un po' di amarezza sotto braccio, porta anche il coprimicrofono, questo per le ultime norme per il Covid, strascica un po' i piedi, è arrivato Leonardo Manera, con calma, adesso andrà a bersi un caffè e tra un 7-8 minuti sarà con noi. Vai! Uno, nessuno, 100 Milan. Sono le 9:36 minuti, signori, siamo in diretta dagli studi di Milano di Via Monterosa 91, c'è Leonardo Manera che si aggira un po' amareggiato, sconsolato, butta la mascherina sul tavolo, ora si infila una cuffia, il problema credo sia questo, ci sono tutte le cuffie rotte, ce n'è solo una da cui si sente da un solo padiglione, e quindi abbiamo un mono orecchio. Leonardo Manera, niente, tenta di modificare i volumi, ma niente. Da che lato ci senti oggi, Leonardo? Se vuoi urlo. Si sente solo a sinistra. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5 cuffie, 4 non funzionano, una funziona solo da un lato. Si sa, d'altro che tu sinistra. Tendi un po' a sinistra, e quindi l'hai scritto anche nel contratto quando... tu voti un po' a sinistra, pendi a sinistra. Io voto a sinistra, ovviamente, quindi... dove mi conviene. Voto dove mi conviene. Se trovo qualcuno che mi promette qualcosa. Insomma, due giorni di fuoriuscita dalla grotta di Piazza Udine e Leonardo Manera è assolutamente intrattabile. Non è che sono intrattabile, ci sono 5 cuffie, 4 non funzionano, una si sente solo da una parte, ditemi voi. Era meglio veramente se stavo a casa con le mie cuffiette del telefono. sono segnali che fanno capire un pochino la crisi, anche il Covid, la situazione un po' delicata. In complesso oggi la schermata dei WhatsApp è un po' impazzita, per cui mi mette sopra i gruppi e sotto i messaggi e faccio fatica a vedere i vostri messaggi. Sono cronache di vita vissuta, sono cronache di difficoltà quotidiane che vedremo di risolvere più o meno nel forse 2023. L'anno forse tra 6-7 anni, non lo so. Ho detto nel 2023, vediamo un po'. Adesso credo che sia partito Lorenzo Nespoli, attenzione, Lorenzo Nespoli è partito con una cuffia, in braccio una cuffia, si scarta sulla sinistra, cerca di uscire dalla porta, cercherà di entrare dalla porta, cercherà di metterti una cuffia a posto, ma non so se VAR, calcio di rigore per la Juve, pure questo, vabbè. Allora, c'è Andrea che ci chiama da Venezia, chiamandoci all'800240024. Andrea da Venezia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sì. Relativamente al discorso del sindaco Sala. Prego. Ma allora, aumentare gli stipendi, ma perché non abbassano i prezzi? Per rendere la vita meno costosa a Milano, a parte... Abbassare i prezzi, che, no. se poi abbassiamo i prezzi si lamenteranno giustamente i commercianti, il problema è che non è che sì, ma il problema venditori. È che non è che per legge tu si puoi abbassare i prezzi, certo. Per esempio della vendita delle case, magari un monolocale a Milano ormai costa 150 200 250 mila euro nelle zone centrali. Magari, ma non puoi andare dal privato e dirgli tu vendilo a 100.000 euro. Magari fosse, cioè magari, no, magari. Non magari fosse così, magari. È così. Esproprio proletario. No, non magari. No. Perché... no, però Andrea, lei vede questa soluzione, cioè dovrebbero invece abbassare, capito, ma... Noi con i soldi pubblici paghiamo di più perché i commercianti vendono le cose più care, cioè non ho capito... Ma si chiama libero mercato, cioè come... libero mercato, uno se prende poco a Milano non riesce a viverci, va a lavorare a Reggio Calabria, insomma libero mercato, è anche questo. Vabbè, va a vivere a Reggio Calabria, oppure vive certamente, il costo della vita è più alto, vive con maggiore difficoltà, non so, io vorrei per esempio, ecco adesso dico, mandatemi dei WhatsApp, poi non riesco a leggerli, non importa, voi mandatemeli comunque al 349-238-6666, facciamo degli esempi, cioè se ci scrivete da varie parti dell'Italia, quanto guarda, costa, quanto ti faccio è un esempio affitto. Io vai. Mio fratello abita in Lomellina, sì. Lomellina è una zona tra Pavia e Alessandria, okay. Quella zona. Lombardia tra Pavia e Piemonte, ecco, in quella zona per esempio ho visto un casale proprio a Casei Gerola, sì. Di 300 metri quadri con, sì. Tutto un terreno annesso di vari migliaia, a posto con vari 2000 metri quadri di terreno al costo di 120.000 euro. 120.000 euro. Casei Gerola è a 40 minuti da Milano, diciamo anche meno, diciamo comunque 40 minuti da Milano. A Milano con 120.000 euro nelle zone centrali compri un box. Quindi che dobbiamo fare? 120.000 euro. Beh, 120.000 euro non è male, insomma, 120.000 euro effettivamente a Milano compri con 70-80.000 euro compri un box. Attenzione, è arrivata una cuffia, ma Leonardo Manera si lamenta perché la lunghezza del cavo della cuffia non è abbastanza. Non è abbastanza per permettere un distanziamento sociale da me. Molto molto ampio, e va bene, caro Leonardo, ti devi un po' accontentare, è arrivata una cuffia che funziona, vediamo, adesso facciamo questa radiocronaca in diretta, è tutto molto bello, eh? Adesso Leonardo si siederà in un'altra sedia, rimetterà la cuffia, oh. Questa funziona, siamo arrivati al punto di avere una cuffia che funziona su 1, 2, 3, 4, 5 che possono essere buttate, non si sa perché vengono mantenute qui sul tavolo in un disordine una polemica, che supera quello polemica. Di casa mia, ci sono 1, 2, 3, 4, 5 cuffie però... non funzionanti che vengono tenute qui per vantarsi forse, abbiamo 5 cuffie, però non ci sono zucchine marce su questo tavolo, sì. Vedi? A differenza di casa tua non ci sono zucchine. Sì, ma ci sono 5 cuffie che sono peggio delle zucchine come risultato finale. Sentiamo cosa ha da dirci Pietro dalla provincia di Modena. Buongiorno Pietro. Buongiorno a tutti. Senta, io mi pongo un problema diametralmente opposto a quello, sì, che ha, sì, appena sollevato l'ascoltatore che mi ha preceduto. Cioè, il lavoro, per come lo vedo io, vale quello che vale, cioè il lavoro va pagato per quello che vale, sia a Milano sia a Reggio Calabria. Sì. Sto in un ufficio a timbrare delle carte, è giusto che prenda la stessa cifra sia a Milano sia a Reggio Calabria. Okay. O viceversa, cioè, quindi non capisco per quale ragione, piuttosto, visto che a Milano la vita è carissima, dovrei andarci a fare un lavoro che non mi assicura un reddito adeguato. Beh, ma se uno adesso, o andare, Pietro, oppure se uno nasce a Milano e fa un lavoro a Milano di quelli che lei ha citato, dipendente pubblico, che deve fare? Cioè deve, qualcuno lo dovrà fare il lavoro come lei ha citato, che ti dà 1.000 euro al mese. Non deve essere neanche una condanna a essere nati e cresciuti a Milano. No, ma infatti il problema sta proprio lì, perché anche il lavoro obbedisce alla legge della domanda e dell'offerta. Quindi se c'è gente disposta a farlo per la cifra, evidentemente il mercato si stabilizzerà su quella cifra. Se la gente cercasse di fare delle cose diverse, ci sarebbe una carenza di offerta per determinati impieghi. E allora il datore di lavoro sarebbe costretto ad offrire di più. Allora, parliamo in questo caso di dipendenti pubblici, quindi il datore di lavoro è lo Stato. È per questo che Sala ha fatto questo esempio, forse, proprio perché i dipendenti pubblici devono stare, appunto, chi lavora in un ospedale, chi lavora, cioè uno delle forze dell'ordine, tutti i dipendenti pubblici, un insegnante, no? E i dipendenti pubblici hanno questo contratto collettivo. E lui dice, se uno fa l'insegnante a Milano, non ha fatto l'esempio dell'insegnante, lo faccio io, se fa l'insegnante a Milano o a Reggio Calabria, lo stipendio è stabilito dallo Stato. E però i costi della vita delle due città sono estremamente diversi. Allora, io non è che ha dato una soluzione, cioè effettivamente Sala ha buttato un po' un sasso nello stagno dicendo è un problema, questo, cioè è assolutamente, ha usato un aggettivo, se non sbaglio, è scorretto, ecco, un qualcosa del genere. La soluzione non l'ha data, cioè gabbie salariali, aumentare la produttività per chi è dipendente pubblico al nord, non ha dato una soluzione concreta, però ha detto che per lui questa cosa non va bene. La soluzione è chiudere Milano. Scusami, esatto, tu che ti vanti di dare le soluzioni facili, Leo risolve facile, me la vuoi dare che ci abbarbichiamo da due giorni su, allora, questa cosa? Ci vuoi dare una soluzione facile per questo problema grande? Abolire Milano, chiudiamo Milano, lasciamo una città museo. Milano era così una volta una delle città più care d'Italia, non ci si vive più, si va però tutti nell'Interland, a Pessano con Bornago, a Casaigerola con Orago, Caseigerola, Vertemate con Minoprio, tutti questi poi. Milano non ci si vive. Arno, Solbiate Olona. Sì, e così almeno le case non costano più tanto, il costo del lavoro. Rimane così. Una città museo. Sì, da venire a visitare, va a vedere il bosco verticale, qui ci abitavano quelli ricchi e così, no? Che però non ci abitano più neanche adesso. Non ci abitano più neanche loro, no? Ma forse loro se lo possono permettere. Va bene, senti, hai per caso anche, perché prima abbiamo parlato di immigrazione e io ho detto che la situazione è molto complicata, quindi le soluzioni semplici non esistono, però tu magari ne hai una, veloce. Guarda, il monologo che farò dopo parla proprio di un tipo di immigrati, di immigrati. E allora, non svegliamo nulla, non spoileriamo, come si suol dire, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Caro Milan, guarda che le gabbie salariali esistono ancora, che vi piaccia o meno, e nel privato ancora di più. Se voi prendete un lavoratore del contratto chimico nazionale, a parità di livello, inquadramento, anzianità, l'impiegato dello stabilimento Eni di Porto Marghera guadagna di più dello stesso impiegato dello stabilimento Eni di Brindisi, per un motivo: perché il contratto collettivo è nazionale, ma poi ci sono le piattaforme integrative locali, le quali producono maggior reddito al nord rispetto che al sud, grazie alla politica, al sindacato e all'Eni. Questo è, ma di che ci stiamo meravigliando? Da sempre al sud si guadagna meno che al nord. Io vorrei porre una domanda a Leonardo Marera e anche ad Alessandro Milan, anzi forse soprattutto ad Alessandro Milan. Ecco, ma perché siete tornati in radio? Se svolgevate benissimo il vostro compito anche da casa? Io non riesco a capirlo, poi è l'ultima settimana. Manera, con tutti i soldi che prendi, comprati una bella cuffia personale e così ce l'hai sempre con te. Oh, che cacchio! Ma mamma mia! Io ce l'ho. Mi alzo un po' il microfono, per favore. Che microfono. Sì, il volume. Ma tu mi hai detto di abbassarti. Perché prima era troppo alto, comunque tu me l'hai messo troppo basso. Che bello, ho il controllo della cuffia di Manera, adesso posso. Posso giocare oggi così? Oggi siamo allo sbando. Guarda come si diverte. Sembra un bambino di 7 anni. Volume a zero. Volume a zero. Dai, parla, non ti senti. Volume. Che bello. Che bello. Posso... Vabbè, dai, basta. Me la alzi un po', per favore, sì, gentilmente. Anche adesso. Sì, alzalo un po', sì. Ancora posso sparartelo? Posso sparartelo? Così va bene. Così va bene. Oggi è una giornata cominciata male e mi sembra che stia proseguendo peggio. Io mi sto divertendo un casino. Sì, certo. C'è chi si accontenta. Vabbè. Gode. Vuoi rispondere tu perché siamo tornati in radio? No, perché, tu sì, non perché lo sai. Dobbiamo registrare delle puntate per l'estate, dobbiamo farlo necessariamente qui. Io sarei ecco. Volentieri rimasto a casa, che mi trovavo benissimo, ragazzi, anche ma devo che dire. Polemico che sei. Che polemico. Oggi è il momento del tuo pezzo. Allora. Temo tantissimo a questo punto. Il clima è questo, cari signori. No, non è polemico. Vabbè. Allora, sarà capitato anche a voi di avere un venditore di rose che arriva al vostro tavolo? A me è successo molte volte. Non ricordo quando è cominciata questa usanza, ma soprattutto d'estate, coi tavoli all'aperto, l'usanza si rinnova e crea sempre grande imbarazzo. Tu sei lì al tavolo con una donna che potrebbe essere la tua fidanzata, una tua collega, un'amica, una semplice conoscente, e a un certo punto arriva il venditore di rose. E a quel punto si creano vari livelli di imbarazzo. Il primo livello di imbarazzo, perché se il venditore di rose si ferma da voi è perché suppone che siate una coppia e che quindi necessariamente il maschio, se vuole essere un minimo galante, debba acquistare la rosa. Ma l'imbarazzo si crea proprio per la supposizione dell'unione sentimentale, che spesso è sbagliata. Allora a quel punto il maschio dovrebbe dire: non siamo insieme io e lei, ma risulterebbe scortese nei confronti della donna, perché in qualche modo sarebbe come dire: questa donna non mi interessa per niente, non potrei mai stare con lei. Quindi l'uomo, prima di dirlo, aspetta un attimo, sperando che la donna lo levi dall'impaccio dicendo no grazie al venditore di rose. A quel punto sarebbe carino, appunto, che il venditore, dopo il no grazie della donna, abbandonasse il campo e invece resta lì a fissarti, aspettando evidentemente anche un diniego dell'uomo, che infatti prima o poi arriva. A questo punto, rincarando la dose e aggiungendo appunto no grazie, non siamo insieme, la donna un po' si indispettisce e pensa che maleducato, anche se come uomo non gli interessa per niente, ma pensa comunque che tu sia un maleducato. Il secondo livello di imbarazzo si crea perché in fondo il venditore di rose non ti chiede una grande cifra, di solito 2 euro per una rosa, ma acquistare la rosa sborsando i 2 euro sembrerebbe un'ammissione di debolezza, e quindi il maschio caparbiamente cerca di resistere per dimostrare di essere un vero uomo attraverso il rifiuto della rosa. Rambo no rose. Anche in questo caso la donna ripete no grazie, ma il venditore di rose resta lì a fissarti come se niente fosse. Intanto arriva da bere, arrivano i salatini e le pizzette. Terzo livello di imbarazzo, proprio perché con gli stuzzichini ti senti in colpa, perché tu mangi e il venditore di rose, che in fondo ti chiede solo 2 euro, pare non avere accesso a un bene primario come il cibo, e il senso di colpa sale. A quel punto lui e lei cercano di continuare normalmente la conversazione, come se il venditore di rose non ci fosse, il che risulta ancora più imbarazzante, perché è come far finta che una persona che è lì presente sia invece trasparente e invisibile. Ricordo una sera di alcuni anni fa in cui ero in compagnia di una donna e il venditore di rose, quando ci alzammo dal tavolo, ci seguì a piedi per circa 500 metri, forse intuendo che prima o poi avrei ceduto, anche per non rischiare di ritrovarmelo in camera da letto, eventualmente insieme a noi. Credo che non acquistare una rosa non sia razzismo e che non sia giusto sviluppare grandi sensi di colpa occidentali per questo. Credo che ognuno, casomai, abbia la possibilità di contribuire economicamente a chi ne ha bisogno in molti modi e non necessariamente acquistando rose. Credo anche che sarebbe utile attrezzarsi preventivamente per uscire dall'imbarazzo, ad esempio tenendo in tasca una rosa finta ed estraendola alla bisogna dicendo grazie, ce l'ho già. Detto questo però, i venditori di rose mi sono simpatici e sono anche utili, perché mettono a dura prova le coppie e il carattere delle persone. Se un uomo e una donna resistono al test del venditore di rose che arriva al tavolo in continuazione per un'intera serata, beh, allora quell'uomo e quella donna hanno buone possibilità di rimanere insieme per sempre, per tutta la vita, e probabilmente una esperienza così vale molto di più di un intero corso prematrimoniale. Bravo Leo, bravo Leo. Tu quando arriva il venditore di rose cosa fai? Io aspetto che la donna, te l'ho detto qui. Sì, sì, ma no, in realtà nella vita cosa fai? Cosa fai? Nella vita reale. Ah no, è quello che è scritto nel pezzo. Va sì, bene, aspetto che la donna prima dica no grazie e poi il venditore ti fissa. Certo. E allora io dico no grazie, non siamo insieme. E la donna pensa, ah, che pezzo di maleducato. Funziona così. Non è che questo fa desistere il venditore di rose? No, lui rimane. Ma sai perché mi è venuto in mente questo pezzo? Perché ho letto ieri su, certo, hai visto, di questi due persone che hanno buttato nel naviglio, sì, sì, un venditore di rose, che mi è sembrato una cosa assolutamente... Sì, è un gesto terribile. Devo dire che è anche una terribile moda in senso proprio sprezzante, lo dico. Purtroppo sui navigli c'è questa cosa di prendere di mira le persone a volte quando c'è la movida violenta, e che cosa si fa? Si butta nel naviglio. Cioè, io non vedo in quello una cosa razzista, cioè lo si fa proprio quando si prendono di mira anche altre persone, purtroppo si buttano nel naviglio, sono dei delinquenti. Dobbiamo andare al giornale radio, vuoi annunciarlo tu con le tue cuffie belle nuove, tranquille, perfette? Le notizie belle di Radio 24. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, 10-8 minuti alla seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, il grande Sandro Fortunati. Ah, Sandro Fortunato, quello che doveva mettermi sul computer la app di Radio 24, sì, e non ma me non l'hai dirlo, installata. Non dirlo, come dire, lui non è capace. No, cioè, non l'ha voluto. Ti sei rifiutato. In 448 ha sistemato la questione WhatsApp, e quindi ora mandate copiosamente dei WhatsApp anche per insultare Manera al 349-238-6666. Io leggo tutto. Per esempio, una rosa a una donna si può regalare a prescindere qualunque sia il legame, dai, solo per un sorriso. Vabbè, scrive un'ascoltatrice, sì, credo. Sì, certo, credo. Ma io alla fine l'ho sempre prese, ma era tutto il discorso che... Cosa che faremo, come faremo, cosa e come faremo senza Manera? Io starò benissimo, per esempio, da settembre, quando non verrà rinnovato il contratto a Leonardo Manera. Vabbè, mi resterà il ricordo di questo triennio. Ti resterà il ricordo delle cuffie non funzionanti, per esempio. Per esempio, l'Alpino è entrato e ora ti sei sistemato anche le cuffie. No, non è vero. L'Alpino ha detto che invece il problema c'è. Ci sono qui 1, 2, 3, 4, 5 cuffie non funzionanti, c'è un filame. Cioè tutti i fili sovrapposti. Il problema non è avere i problemi. Il problema, o meglio, la cosa migliore è risolverli. Hai una cuffia funzionante, sì, sulle orecchie? Sì, abbiamo qui Alessandro Milan che dice lo zen e è l'arte della manutenzione delle cuffie. Rosanna da Milano, buongiorno Rosanna. Buongiorno, buongiorno. Eccoci. Ciao. Ciao Rosanna. Ascolti, a questo punto a me non è che piace come sindaco, però a questo punto ha proprio ragione Sala. Sala. Io sono di Cutrofiano, provincia, sì, di Lecce. Sono 40 anni che sono a Milano. Quando vado giù, sì, io rimango a bocca aperta. Le donne non lavora nessuno. Chi ha uno stipendio anche di 1200 euro sta da signore. Da signore. Le, per esempio, faccio un esempio, Rosanna, di prezzi che sei abituata, sì, a vedere, sì, a Milano, allora, proprio di vita, affitti, quotidiana. Affitti. No, affitti. Affitti. Un monolocale qui 600 euro, ce l'ho di fianco a me. Sì. E a Cutrofiano? Più una casa di 120-110 metri con giardino, verande... Sì. 250-300 euro. Accidenti. E poi hanno tutto a nero, eh? Rosanna, questo non è, questo non è però bello. Io lo dirlo. So bene. Ma non è bello. Però. No, però non possiamo, paragonare le cose illegali con le cose no, legali. Ma anche, stiamo sulla legalità. Ma cioè, anche non nella legalità nero, è così, anche nella legalità. E vediamo è così. Allora se non fo- cioè, ma 250-300 euro a nero o 250-300 euro con un contratto in nero, in nero, che io ce l'ho la casa in affitto e ho sempre registrato, Adesso ho mandato via 11 mesi che non mi pagava l'affitto, sì. Anche lì ci sono i mascalzoni come ci sono qua. No, va bene. No, ma certo, quello che voglio dire è che facciamo paragoni tra situazioni e con contratti, nel senso non possiamo paragonare un contratto con per esempio un ristorante, un conto, una pizzeria. Lì la pizza. Con 3 euro prendi la pizza migliore. Al ristorante. Prendi la margherita con 5 euro. Anche 5,50. Anche 7-8 euro diranno la margherita. Sì, però la verdura te la regalano le persone, perché tutti hanno un pezzetto di terra e si fanno la verdura. Qui io pago dall'A alla Z, anche per semolo, voglio dire. Come fanno paragone la vita di Milano con la vita di giù? Che no, ma il sindaco della Calabria lì che di prima di Reggio Calabria, costo della vita sia diverso, questo è una ovvietà e lo sanno tutti. Però Rosanna, grazie. No, io quello che invito a dire, paragoniamo situazioni, non una in nero e una con un contratto, sennò lì lo squilibrio non vale. Che io per un periodo ho frequentato una ragazza di Cutrofiano. No, è vero. Rosanna, Rosanna, c'è ancora? Rosanna, no, mica no. È lei? Mica è lei? No, Rosanna? Allora ti racconto non è Rosanna. Sì. Racconto cosa è successo. Ero uscito con questa ragazza di Cutrofiano che però abitava a Milano. Come si chiamava? Non lo dico. Allora, abitava a Milano. Bravo Peter, qua ci sta. Allora, si sa, quando si parla di ragazza ci va sempre la base amara per Manera, perché il finale è sempre... È andata così, lei abitava a Milano insieme alla sorella. Sì. La prima sera che siamo usciti, la sorella non si fidava di me evidentemente e voleva che la sorella rimanesse virtuosa. Quindi siamo usciti io in tre. Io e questa ragazza di Cutrofiano nel sedile davanti, cioè, e la sorella dietro, che però controllava e commentava quello che facevo. E se per esempio cercavo di abbracciarla, lei mi toglieva la mano e cioè, Ma in genere manda il fratello, ma non aveva un fratello. Non aveva un fratello. E com'è che commentava? E poi diceva il nome di lei, diceva no X, no, dicendo il nome di lei. No, no, tipo facciamo Giulia, dai. No, Giulia. E quindi ci siamo frequentati. Ti sei messo con la sorella più grande? No, ci siamo visti solo un'altra volta e poi basta. Anche la seconda volta con la sorella. Grazie Leo, sei il migliore nell'amarezza. Andrea da Roma, buongiorno Andrea, eccoci. Buongiorno a lei e a tutto il tuo staff. Vai. Niente, a proposito delle case che costano care come le case, questa è la mia esperienza, io ho lavorato con la ESSO italiana per 30 anni e quando mi hanno spostato dalla sede, per esempio di Roma, alla sede di Pescara, mi hanno pagato un contributo fitto che praticamente era la differenza tra quello che pagavo a Roma e quello che andavo a pagare a Pescara. Vabbè, però questa è un'azienda privata. Sì, perché lo Stato... Lo Stato potrebbe farlo, lei dice. Potrebbe farlo pure lo Stato, no? Sì, capito? È chiaro. Ma questo è il tema infatti di lanciato in qualche modo da Sala. Vedi che poi sui giornali il dibattito non c'è, ma gli ascoltatori vogliono, sono appassionati su questo. Andrea, grazie. Sentiamo anche Antonio da Napoli, prima del traffico. Antonio. Buongiorno, sì. Buongiorno a tutti, buongiorno Milan. Eccoci. Allora, dobbiamo secondo me sfatare però alcuni luoghi comuni. Io faccio questa premessa, chiamo da Napoli, che tutti sanno, come dice lei, come dicono gli ascoltatori, che il costo della vita al nord sia maggiore rispetto a quello che è al sud. Io vivo in una città dove non ho servizi e dove per problemi di bilancio comunale abbiamo la tassazione più alta d'Italia, quindi tutti i tributi e tutte le tasse che lei paga, io le pago tre volte tanto e quindi non ho servizi, pago tasse e quindi il mio beneficio rispetto a quello che è lo stipendio di una persona, di un insegnante, facciamo, lei faceva l'esempio del stipendiato pubblico che guadagna al nord rispetto a quello al sud, lo spende in più rispetto a quello che è la tassazione comunale, regionale, perché spesso i nostri comuni sono in disavanzo e quindi aumentano le tasse comunali e regionali. In più, lo sapete tutti perché anche questo è un luogo comune, lo dobbiamo dire, che i servizi al sud non esistono, gli asili li paghiamo. Anche al nord. Al nord esistono gli asili pubblici, al sud ne esistono uno su cinque. Io sono un assistente sociale specialista, mi perdoni, so perfettamente. Quindi lei dice, non essendoci i servizi, bisogna pagare di più privatamente le cose. Non abbiamo trasporto, le metropolitane sono tre volte tanto, i tempi di attesa sono tre volte tanto, la sanità. Perché la sanità, che fortunatamente non è stata colpita al sud così come al nord, perché noi andiamo tutti al nord? Liste d'attesa, costi. No, ma è chiaro, ma lei, Antonio, dà una lettura, il mio stipendio se ne va in servizi, in i servizi che invece dice al nord vengono garantiti più ai cittadini. Sarebbe interessante sentire De Magistris, per esempio, no? Rispetto a questo, sul fatto che i servizi sono carenti, perché invece spesso De Magistris sostiene che Napoli. Comunque, Antonio ci ha posto una visione anche diversa, dire al sud molto spesso non ci sono i servizi del nord e quindi uno deve pagare privatamente ciò che invece al nord è garantito più alla collettività. Io credo che comunque, non so, se uno va l'affitto, che è una bella fetta di soldi, la differenza, che ne so, tra 1000 euro e 600 euro, faccio due esempi, 400 euro sono già una bella, bella differenza. Non so se la carenza di servizi compensi, come dice Antonio, il costo di affitti così, così spropositatamente diversi. Però è un tema interessante. Adesso andiamo al traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Dite a questa Rosanna di Cutrofiano che lei a Milano ci sta come io sono stato 70 anni in America. E andiamo a vedere le persone più umili della Calabria, della Basilicata, della Puglia, della Sicilia, come vivono e con che ricchezza riescono a sopravvivere. Ha ragione la signora che ha chiamato meridionale. Al sud l'evasione che è l'80%, altro che palle, oltre ad avere i prezzi più bassi. Allora, 10-20 minuti, adesso vogliamo concentrarci, caro Leonardo Manera, su questa storia brutta, devo dire una brutta storia, che però forse ci permetterà di conoscere, almeno io l'ho vista intervistata, l'ho vista anche oggi sul Corriere della Sera, una bella persona, questo mi sembra di poterlo dire. Beatrice Ion, che saluto, giocatrice della Nazionale Italiana di Basket in carrozzina. Buongiorno Beatrice, grazie. Buongiorno, di qui. Salve. Allora, Beatrice Ion, che è finita su tutti i giornali, ma non voleva finire sui giornali per questa storia, diciamolo chiaramente. Una vicenda che è nata, se io ho capito, per la contestazione di un parcheggio per disabili. Purtroppo succede spesso, purtroppo, incredibilmente. Ma che tipo di contestazione, Beatrice? Ma sostanzialmente io ho il permesso di parcheggiare la macchina davanti a casa mia, siccome ho una disabilità e ho una carrozzina. Quindi quando devo salire in macchina per me è più semplice piuttosto che andare fino al parcheggio, che comunque è abbastanza lontano. Certo. Solo che delle persone hanno affittato la casa dinanzi a noi per le vacanze e non so che problema avessero con questa cosa, fatto sta che hanno cominciato a farmi dispetti, appoggiare le bici sulla macchina, poi per me salire in macchina era complicato, a lasciare le manate sulla macchina e cose del genere. Quindi noi ci siamo lamentati con l'amministratore, che sappiamo che affitta queste villette sostanzialmente. però la cosa non è cambiata. E quindi dopo due settimane, un giorno mio papà stava uscendo dal cancello di casa, io ero in giardino con mamma, e ha visto i vicini e gli ha chiesto di nuovo cortesemente se potessero smettere a ripoggiare le biciclette sulla mia macchina, perché per me era complicato salire in macchina. E allora lì hanno cominciato ad offenderci perché abbiamo degli straniere, perché io sono disabile. Comunque è stata una discussione accesa, no? Lo trovo abbastanza incredibile, tolgo abbastanza perché l'ho sentito da lei, allora riferito abbastanza. È incredibile. Ma queste persone che età hanno, giusto per capire, giovani? Guardi, onestamente non lo so, penso sulla cinquantina, sono comunque persone abbastanza grandi. Forse di più. E hanno iniziato a insultare per la disabilità, per le origini, perché Beatrice è originaria della Romania, adesso è cittadina italiana, tanto che veste, questo non cambierebbe niente, però giusto per dire, veste la nazionale, veste la maglia della nazionale azzurra, no? Italianissima, quindi. Assolutamente, io vivo in Italia da 16 anni. E poi fatto ciò, la discussione era finita lì, solo che dopo 5 minuti è arrivata una persona che noi non avevamo mai visto, non so, portone di casa, voleva entrare a dire mia mamma. In quel momento papà stava tornando dalla sua consueta passeggiata, perché passeggia sempre. Questa signora appena ha capito che era mio papà, gli ha tirato una testata e l'ha preso a pugni, e gli ha rotto lo zigomo, un dente, e ha vari lividi in faccia. È stato denunciato, ovviamente. Esatto, spero che ci sia una denuncia a questo punto. Sì, assolutamente, noi la stiamo preparando con l'avvocato, poi la andremo a deporre ai carabinieri. La sera stessa che abbiamo chiamato i carabinieri e l'ambulanza per papà, il signore fortunatamente l'abbiamo visto in macchina che passava accanto ai carabinieri e l'abbiamo riconosciuto e l'hanno fermato, quindi sanno anche chi è. Vabbè, e fin qui i fatti. Dopodiché sono partiti dibattiti, discussioni, il tema del razzismo, il tema della disabilità, che noi affrontiamo varie volte, affrontato in questo modo da persone non saprei neanche definire. E che considerazioni le ha fatto fare queste? Non è stato piacere, ma allora diciamo che ha usato termini che non penso di poter usare, perché mi dovreste bippare completamente. Però una parola che ha usato in particolare è handicappata, no? Mi ha dato dell'handicappata. E per me però non è un'offesa, cioè non vedo perché debba essere un'offesa, debba essere usata per offendere qualcuno. Continuo a non capirlo, onestamente. Più altri sì, insulti, sì, pesanti. Sì, più tornate nel tuo paese, tanto tua madre avrebbe dovuto fare un'altra figlia e cose del genere, ecco. Ma è capitato mai nella sua vita di dover affrontare momenti non così, magari, ma di non so se definirlo razzismo, insomma, però chiedo a lei. Sì, per razzismo no, di razzismo no. E per la mia disabilità sì, purtroppo capita più spesso di quanto si creda, soprattutto per i parcheggi per i disabili. Spesso e volentieri mi capita di dover discutere con le persone perché magari io vado al centro commerciale o vado da una parte e i posti sono sempre occupati da persone senza tagliando e che non si potrebbero parcheggiare lì. Quindi mi capita in realtà purtroppo spessissimo. Questa storia dei parcheggi disabili, che può sembrare secondaria, è proprio un sintomo del grado di civiltà, di senso civico di una nazione, no? Esattamente. È abbastanza incredibile, ma è così. Io lo vedo anche in una grande città come Milano. Effettivamente ci sono pochi parcheggi e magari qualcuno pensa per questo, dice: ah, guarda, c'è un posto libero. E sono ben segnalati il fatto che siano posti per disabili. E però parcheggiano lì, cioè dicendo chi se ne frega. Tutta questa storia che cosa le insegna? Cioè, se le insegna qualcosa? In realtà sì, perché tralasciando la cosa brutta che è successa, no? Io non mi aspettavo così tanta solidarietà da parte di così tante persone, quindi è vero, ci sono persone che fanno gesti così brutti, però ho imparato che ci sono veramente tante, tante, tante, tante brave persone che hanno a cuore le altre persone, ed è bello sapere che ci sono persone che ci tengono a queste cose e che ti fanno sapere che hai il loro supporto e ti anche mandano anche un messaggino piccolino, però sono cose che fanno piacere, quindi un po' mi hanno aiutato a capire che il mondo sta cambiando nei confronti della disabilità e che non veniamo più visti come prima, cioè c'è più accettazione adesso, fortunatamente. Questo è un bene, cioè, anch'io sono convinto che quei pochi disgraziati non rappresentino pochi, la maggioranza. Pochi relativamente, perché ne trovi sempre più o meno ovunque, no, di persone arrivare che... addirittura a spaccare un dente da una testata, sono episodi rari, fortunatamente. Però di persone che parcheggiano nei posti dedicati ai disabili ce ne sono tanti, sì, secondo me. Questo sicuramente. Cara Beatrice, sì? In bocca al lupo, nel senso, veramente sarebbe bello vedere la nazionale italiana e lei sulle prime pagine dei giornali per altri motivi, non per questi episodi di cronaca brutale, no? Magari succederà. Com'è la nostra nazionale di basket in carrozzina, allora, a livello di competitività? Ce la caviamo, i maschi sono molto bravi. E sono veramente una scuola forte. Noi nel femminuccio siamo nate dopo, però stiamo crescendo e ci impegniamo molto e speriamo di ottenere dei risultati prima possibile. Bene. Stiamo facendo il possibile. È vero che hai imparato la lingua, come leggo sul Corriere, quando è venuta da Romania da piccola vedendo Doraemon e i Pokémon in TV? Assolutamente sì, ero tutti i giorni davanti alla televisione a guardare i cartoni. E che lingua si impara a guardare i Pokémon? Perché io Doraemon. Ma Doraemon l'abbiamo guardato tutti. Sì, certo, Doraemon lo guarda anche Gatto Spaziale. Sì, lo guardano anche i miei figli adesso. È un capolavoro. È un capolavoro. Anche a me piaceva molto Doraemon. Sì. Cartone preferito, quindi Doraemon a questo punto. Sì. Senza dubbio. Grazie a Beatrice Ion, in bocca al lupo davvero ancora nuovamente, giocatrice nazionale italiana di basket in carrozzina. Sarebbe bellissimo a lei avere anche tutta la solidarietà di molti ascoltatori che hanno scritto e mandano tanti abbracci virtuali. Sarebbe bellissimo avere, sai che il gatto Doraemon estraeva dalla sua pancia i ciuschi, si chiamavano. No, io guarda, lo guardo i miei figli, ma lo guardo distrattamente. Si chiamavano ciuschi. E cosa sono? Degli attrezzi che risolvevano ogni problema. Ah, ecco, tipo? Tipo tu non riuscivi, per esempio, eri timido con le ragazze, lui ti dava un ciuschi, una cosa che ma ti permette. Un ciuschi da mangiare? qualsiasi cosa poteva essere. Ma c'è ancora Beatrice, lo chiedevamo a Beatrice. Che tu attivavi e non eri più timido, ecco. È ancora con noi Beatrice? Sì, sono ancora qui. Allora, i ciuschi, perché Leonardo Manera è così. Cosa sono sti ciuschi, Beatrice? Ma erano semplicemente dei gadget, tra virgolette, nel qualsiasi problema tu avessi, Doraemon ne tirava magicamente uno fuori, per risolvere ogni problema, quindi ci vorrebbe un ciuschi anche per risolvere il problema di dell'inciviltà, dell'inciviltà. Sì. Un bel ciuschi di Doraemon potrebbe essere una soluzione. Grazie ancora Beatrice Ion e grazie a Manera, gran fan di Doraemon. Ma chi l'avrebbe mai detto? È arrivato lo smargiasso intanto in regia. È arrivato Mauro Meazza, ma guarda, adesso poi... Ah, ti sei tenuto tutti gli insulti per mesi e mesi e mesi. Guardalo qua, lo smargiasso in mascherina. Cambiano i tempi, c'è il coronavirus, ma lo sguardo, l'aspetto da smargiasso di Meazza non cambia mai, con quella protervia latente paura. E anche patente, perché si vede poi. Vabbè, bentornato Mauro Meazza, o bentornati a noi, potresti dire, eh? Non vedevi l'ora. Sentiamo la borsa con Deborah Ruscia. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Nomi e cognomi di quei fetenti che hanno osato comportarsi così alla radio e alle televisioni. Nomi e cognomi, per favore. ma che razza di persone sono quelle che se la prendono con una disabile e con suo padre invece di aiutarla, agevolarla, incoraggiarla, la ostacolano, la deridono, la sbeffeggiano, aggrediscono il padre? Ma è qualcosa veramente di incredibile. Lo so, eppure accade. Vabbè, mitici e Police Console Only. Vabbè. I Police che ci piacevano, quelli primissima maniera, o no? Sei... Non ricordo, sono troppo giovane. Ma dai. Non ricordo, sono un ragazzo, non ero ancora nato quando c'erano i primi Police. Cos'è? Cos'è? Un gruppo musicale? Vabbè. Non conosco. Allora, il buon Leonardo Manera, lo sappiamo, è stato a Numana a fare uno spettacolo un po' loffio, un po'... Stucchevole. Vorrei chiedere conferma al sindaco di Numana, Gigi Tombolini. Buongiorno, sindaco. Buongiorno a tutti. Stiamo piangendo. Spettacolo sì. Proprio una tragedia. Scadente. Se abbiamo la conferma del sindaco, possiamo mettere il bollino definitivo. No, ha fatto un grandissimo spettacolo, Leonardo, che ha fatto anche riflettere ed emozionare, quindi credo che c'è stata comicità e anche tanti spunti di riflessione che credo più che mai in questo momento siano necessari. No, però, quindi grazie Leonardo per la serata. Grazie a voi per l'ospitalità. Io non l'avrei mai chiamata per fare un elogio a Leonardo Manera, lo sa caro sindaco, mi sarei rifiutato. Però, una cosa è oggettiva, è oggettiva. Però insomma, il nostro Leonardo ha detto che in realtà ha scoperto che lì a Numana, parlando anche con lei, il turismo va benissimo, altro che crisi. Guardi, se 2 mesi fa mi dicevano che avremmo affrontato una stagione così, non è che avrei messo le firme, sarei andato subito in chiesa a dire una preghiera. Stiamo andando molto bene. Sinceramente sono molte le persone che ci hanno scelto, che ci hanno dato fiducia, e noi stiamo cercando di ben interpretare quella che abbiamo definito questa New Life 2020, cercando di dare un senso di normalità, ma allo stesso tempo garantendo la sicurezza e la salute. Sì. Noi dobbiamo cercare sempre il giusto equilibrio ormai tra la salute delle persone e la salute di un'economia dietro cui lavorano poi tante persone, tanti posti di lavoro, e quindi credo che sia importante trovare questo giusto equilibrio, e credo che quest'anno noi l'abbiamo trovato. E c'è addirittura un incremento anche rispetto agli anni scorsi, se non ho capito male. Sì, i conti si fanno sempre a ottobre, come dico io, però diciamo che attualmente i segnali sono molto positivi. Le telefonate sono tantissime, c'è stata una grandissima accelerazione che forse ci ha trovato anche un po' impreparati, però stiamo recuperando nelle risposte ai clienti, nell'accoglienza, siamo riusciti a mettere un cartellone di spettacoli, abbiamo quasi 70 eventi, tutti completamente gratuiti, finanziati tutti con gli sponsor, proprio per cercare di regalare sempre una grande emozione. Quindi abbiamo avuto Leonardo, poi avremo tanti altri comici e tanti personaggi illustri che ci allieteranno. Però, sindaco, la carambatta non è finita, perché io ieri quando ho detto abbiamo il sindaco di Numana, attenzione perché c'è una nostra voce importante qui a Radio 24 che è collegata, ha detto ma io vado sempre a Marcelli di Numana. La nostra Debora Rosciani. Debora! Eccola! Debora! Eccola, cioè, ragazzi, allora, io non lo so. Spero che mi verrai a trovare. Ma ragazzi, ma che è? Numana Caput Mundi, ma che è sta storia? Debora. Ma io abito lì, scusami, abito a pochi chilometri, dov'è che vada al mare? Ce l'ho lì a portata di mano, questo splendido paesaggio, questa bellezza, questa opportunità. E che mare. Quest'anno abbiamo festeggiato la 21ª bandiera blu. Cioè, carambata. Debora mi ha detto che esiste il diploma di Numanità. Il certificato dato a Leonardo Manera. Diciamo cos'è la Numanità, lo spirito di accoglienza. Non è una frase nostra, ma l'ha coniata 3 anni fa Marco Mazzocca, che è un altro personaggio che frequenta molto le nostre spiagge. In un'intervista ha detto: perché vai a Numana? E ha detto: per il mare, per il cibo, per la natura, ma soprattutto per la umanità. È una bella definizione. Marco Mazzocca, comico anche lui, vedi che a volte i comici fanno qualcosa di buono, caro Alessandro. E noi ci abbiamo aggiunto questa capacità che abbiamo di regalare un abbraccio con un sorriso. Vabbè, ma Deborah, tu ce l'hai il diploma di, o il certificato in umanità? No, cioè, anche perché sai, io vado lì un po' in incognito, non è che vado lì e arrivo a guardate che sono una giornalista di Radio 24. No, vabbè, se a parte questo, io abito a Castelfidardo, quindi mi sembra il minimo sindacale godermi le mie spiagge. Ecco, però è interessante questa cosa. Sì. Il certificato di umanità viene rilasciato alle persone che alloggiano qui da noi, che hanno scelto le strutture. Beh, allora, scusate, Deborah Rosciani, un ringraziamento a nome mio, e quindi c'è questo certificato per aver aiutato a ripartire. Quindi forse l'economia. Deborah Rosciani ne dovrebbe avere già 15, 20 di certificati. No, abbiamo il certificato d'oro. Va bene. Il problema è che Deborah Rosciani guardi viene. Che vengo a fine mese in vacanza, giù è agosto, me lo passo tutto nelle Marche quest'anno, allora, quindi vengo a riscuotere immediatamente, sindaco. Non devo passare l'esame. Il mio numero privato da Leonardo e poi facciamo tutto. Ci penso. Facciamo tutto. Signore e signori, dalla Proloco di Numana è tutto, possiamo no, Leonardo, cosa aveva Leonardo? No, dire? Mi chiedevo se Deborah Rosciani. Hai mangiato i moscioli? Mangiato i moscioli e i vinci sgrassi? No, mi ha mangiato del pesce in umana l'altra sera, peraltro molto certo. Buono. Ma mi chiedevo se Deborah Rosciani quando va in vacanza a Numana paga oppure viene ospitata gratuitamente in cambio delle dritte pago, che dà sulla borsa. Fatti rispondere da mia sorella se pago, perché noi abbiamo io ho tre causa, nipoti e quindi pago. Se no, pagamento doppio adesso, pagamento doppio giustamente. Ma vabbè, insomma, qui quindi paghi tutto, Deborah, dillo, anche se non è vero, dillo. Ma ci mancherebbe altro, ma per quale motivo? Io sostengo l'economia, credo naturalmente nel contributo che ognuno di noi deve dare all'economia locale. Ma scusa, Deborah, tu frequenti sapere, quel farabutto sindaco, di Mauro Meazza, dovresti paghi. Lui no, cioè, lui va lì con il suo fare da smargiasso, lui va a Bordighera, peraltro, va a sapere che intralazzi avrà per avere sindaco, potuto godere. No, voglio sapere dal sindaco però se i Lombardi hanno qualche difficoltà a palesare la loro presenza nelle Marche. Sì, perché io lo devo dire, sindaco, io sono milanese, abito, ho la mia famiglia nelle Marche, ma chiaramente abito da più di 20 anni a Milano e qualche difficoltà nel palesarmi come milanese nelle Marche ce l'ho. Avete un pregiudizio contro di noi che abbiamo ancora un po' di strascico da Covid o no? Perché questo invece è un tema serio, secondo me. Sarebbe un pregiudizio stupido, assolutamente. Calcoli che la Lombardia è una delle regioni da cui arriva la maggior parte del nostro turismo. È logico che nei riguardi di tutti, anche di noi stessi, noi stiamo adottando dei sistemi di sicurezza che poi sono quelli della normale legalità. Stiamo attenti, cerchiamo di sensibilizzare le persone, perché credo che poi il successo si abbia soltanto se ognuno di noi svolge il suo ruolo, svolge il suo compito. Quindi anche prima di uno spettacolo noi invitiamo tutti ad apprezzare il fatto che facciamo spettacoli gratuiti, ma invitiamo il pubblico anche ad assumere un atteggiamento che non crei assembramenti e quindi misuriamo la febbre alle persone che si siedono, distanziamento tra le seggiole, quindi cerchiamo di prendere questa new life dando le giuste informazioni senza fare del terrorismo, ma bisogna sempre sapere che il problema c'è e va affrontato e va controllato. E senza soprattutto giustamente respingere nessuno. Noi ci dobbiamo fermare. Deborah, tu devi andare a studiare che tra poco sei in onda. Sì, devo studiare la scaletta. Brava, saluti il sindaco Tombolini, tutte le Marche e ci ritroviamo presto. E va bene, noi salutiamo e ringraziamo il sindaco di Numana, Gigi Tombolini. Va bene, e allora è il momento del traffico. Arriva sconti Poste nelle Anystation. Fai rifornimento e paga con le carte BancoPosta e PostePay. Ricevi sconti in cashback grazie al programma Sconti Poste. Fai il pieno di sconti con Anystation e Poste Italiane. Scopri di più su scontiposte.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per limitazioni e dettagli sull'iniziativa Sconti Poste e sui distributori Eni aderenti, vai su scontiposte.it. Per le condizioni contrattuali ed economiche delle carte di pagamento PostePay e BancoPosta, consulta i relativi fogli informativi negli uffici postali e su poste.it, sezione trasparenza. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma che gran scelta musicale oggi. I got my head checked by a jumbo check. No! Ma perché non l'hanno bloccato all'ingresso? Allora, ma gentilmente, ma lei come ha fatto a entrare qui nella sede allora, del Sole 24 ore? Ho le mie ore? Entrature, ho le mie conoscenze di gente per bene. È passato bene, dalla cantina, è passato dal garage. Buongiorno, sono Giampaolo, detto Geppo Garosio. Ho fondato un partito, il partito Super Sovranista Italiano, PSSI, si pronuncia PC, mandiamo gentilmente per intero l'inno, mandiamo l'inno del partito Super Sovranista Italiano, eccolo benissimo, buongiorno, mandiamolo tutto, non questo sovversivo comunista che abbiamo in regia, penna piegata. Allora, penna piegata, ricordiamo l'alpino, penna nera. Buongiorno a tutti i veri italiani, a tutti gli italiani doc. Anche quelli non italiani. A tutti gli italiani doc. E gli altri? Agli altri si facciano i fatti loro, non rientrano nella mia sfera di interesse, voglio precisarlo subito. Io non l'ho interrotta mentre stava parlando lei, lei gentilmente non mi interrompa, altrimenti abbandono lo studio. Magari. E vi lascio senza il mio contributo fondamentale. Allora, io sono uscito dalla Lega di Matteo Salvini perché lui è troppo moderato. Lui per esempio chi vuole che rimanga in Italia? Gli extracomunitari regolari, è vero o non è vero? Bravo, così dopo noi dobbiamo pagarli come gli italiani e allora poi portano via lavoro agli italiani. Io invece dico mandiamo via gli extracomunitari regolari che tornino al loro paese e restino qui solo gli irregolari, così possiamo mandare a lavorare nei campi a un euro all'ora e finalmente possono rendersi veramente utili agli italiani. Non mi interrompa. Mi lasci esprimere le mie idee che sono quelle condivise dal popolo italiano vero. Allora è troppo facile dire che siamo tutti uguali. È arrivato un voto non PIS nelle regionali, non è vero che siamo tutti uguali. Se fossimo tutti uguali le donne verrebbero a letto con me come vanno, come vogliono George Clooney. Invece non è così. Chi? George Clooney, le donne di solito preferiscono George Clooney, anche se io conosco mia moglie per esempio che preferisce me, ma diciamo che di solito le donne preferiscono George Clooney. E allora non è vero che siamo tutti uguali. Quelli che dicono che siamo tutti uguali sono buonisti come lei, quelli che non sono mai scesi in mezzo alla gente, quelli che non hanno mai camminato in mezzo al popolo, quelli che non sono mai scesi al loro terrazzo. Lei non scende dal suo terrazzo neanche per fare la spesa, si fa mettere il banchetto, il fruttivendolo sul terrazzo, si diverte a scegliere arance, le banane, i mandarini cinesi direttamente. Bella la vita, così è bella. Ma come dice il proverbio latino, si vi spaccia in paraculum. E allora dobbiamo attrezzarci, prepararci al peggio, perché altrimenti saremo invasi da tutti gli stranieri del mondo. Ma andiamo Molino gentilmente non e guarda così. Si spaccia paraculum e guarda che se ci invadono tutti gli stranieri dal mondo, se tutti gli stranieri del mondo vengono a vivere in Italia, vuoi provare tu a mantenere il distanziamento sociale con 7-8 miliardi di persone tutte in Italia? Ma perché devono venire in Italia? Se vengono tutti gli stranieri, ma come vuole lei dal suo terrazzo? Guarda che anche il suo terrazzo non è più esente. Poi prova a mantenere il distanziamento sociale, il coronavirus lo prendi lo stesso. Allora, come dice il proverbio, chi scherza fuori il fuoco almeno deve avere l'estintore. Ma chi ce l'ha l'estintore? Solo quelli che hanno i soldi per comprarlo, tenerlo sul terrazzo insieme ai suoi amici esotici, così la vita è comoda, radical chic, buonista, figlio dei fiori, figlio dei fiori, figlio dei fiori. Chi sarebbe? Se me li hanno lì c'è il concimare, ma non sempre, ma no. Non tutti se lo possono permettere. Mandiamo Lino gentilmente, pisci anche tu. Penna piegata. Allora, non è vero che sia. Siamo tutti uguali, ci sono i bianchi, i neri, i gialli e se uno non sa distinguere o è daltonico o è in malafede. Ma oggi perché sono venuto qui? Perché? Non mi interrompa, non mi interrompa, non mi interrompa, abbandono lo studio, allora quei sovversivi, date la voce a tutti, Confindustria piegata. Allora perché sono venuto qui? Perché ieri sedicente presidente del Consiglio Giuseppe Conte è andato a chiedere udienza ad Angela Merkel, è vero o non è vero? Sì. È vero non è vero, come se fosse la padrona del mondo, come se fosse la padrona del mondo, Angela Merkel. E allora noi abbiamo, mi dica lei se non è vero, non mi interrompa, vorrei terminare il mio pensiero, voglio terminare il mio pensiero, il mio concetto. Allora noi abbiamo Michelangelo, Leonardo, Donatello, Albano e Romina, il mago Silvan e dobbiamo andare a chiedere udienza ai tedeschi che al massimo hanno l'Oktoberfest, quelli là la birra, si atteggiano come se fossero gli sceriffi del mondo perché bevono, si ubriacano. Sì, ma anch'io se bevo poi penso di essere il super figo del mondo, ma non è così. Ma non è così. Allora, se per avere, mi dica se non calza questo ragionamento. Non calza. Mi dica se non calza. Non calza. Se per avere credibilità in Europa devo imbottirmi di birra, andare in giro coi sandali col calzino, ditelo come lo organizzo. Solo che se fai così in Italia sei uno sfigato, se lo fai in Germania sei super figo. Non va bene, perché altrimenti facciamo due pezzi e due misure. Due ma che? I due pezzi vanno bene in spiaggia per le ragazze e non a chi deve gestire il popolo. Usque Tandem, Caterina a buttare la mia pazienza. Allora non c'è più credibilità. E allora io dico, se vogliamo che le cose vadano bene, non dobbiamo andare a chiedere a Merkel. Andiamo da quelli che hanno reso grande, grande l'Italia. Sai come si chiama? Umberto Tozzi, Ettore Andenna, Iva Zanicchi. Solo per fare alcuni nomi. Perché se andiamo a chiedere alla Merkel, saremo sempre destinati a essere schiavi della... Non mi interrompa. Il partito sovranista polacco del presidente Duda. Sai come si chiama? In acronimo PIS. Non mi mandare lì PIS, certo, perché è un grande movimento transnazionale, mondiale, mondiale, perché finalmente il nostro stiamo cominciando a essere il partito più votato al mondo. Lei ha rotto, Garozzo, glielo devo dire. Lei ha rotto. Non è educazione da parte sua. La trasmissione è buona educazione. Il microfono è mio, Alpino, penna piegata, penna ritta, tiragli via il microfono per favore. Basta, senti come si respira. Mamma mia, ma perché l'avete fatta entrare? Perché l'avete fatta entrare? Perché chi gli ha dato il pass? Altro che il pissi. Il desidero pass. Terminare. Oh, il mamma. Basta, basta. No, no, no, lei. Lei non è più gradito. Tira giù il microfono. Tira giù. Terminare il proprio pensiero. Tira giù. Ah, gliel'hai tirato giù. Niente, allora. Manda la sigla. Manda la sigla. Garozzo, ciao, manda la sigla. Ciao. I poteri forti. Nessuno, nessuno.